Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. 12 settimane per imparare una delle professioni più richieste al mondo, quella di web developer. È quanto promette Codemaster, primo master italiano in coding, un progetto che nasce all'interno di Talent Garden, più precisamente all'interno della Tag Innovation School, la scuola su mondo digitale e innovazione fondata dalla rete di coworking. È la storia con cui apriamo la puntata di oggi. L'abbiamo scelta perché è significativo che ad occuparsi di formazione, a preoccuparsi del futuro professionale delle nuove generazioni sia una startup, Talent Garden appunto, una startup che ha fatto della condivisione di idee e lavoro un modello per la promozione del territorio. Quali e quante delle attuali professioni la tecnologia metterà a rischio? Sul nostro futuro e sul futuro dell'occupazione in relazione all'innovazione si interroga anche un libro appena uscito, si intitola Pop Economy. L'autore è un economista che ha molto da insegnarci in tema di contaminazione. Ci è venuto a trovare, con lui tra poco parleremo di molti dei fenomeni che stanno rivoluzionando il mondo dei consumi e non solo. Per il focus sui trend, spazio invece alla action mania GoPro, ma non solo, ora ci sono anche i droni che ci inseguono e ci riprendono mentre facciamo sport, dalla corsa al rafting. È un filone che i brand cavalcano anche per le proprie strategie di comunicazione. Parliamo di tutti quei prodotti e servizi che rendono memorabile la nostra esperienza sportiva. Non comprare semplicemente un nuovo videogioco, fanne uno. Non scaricare l'ultima applicazione e basta, contribuisci a progettarla. Non usare il tuo telefono solo per giocarci, programmalo. E non permettere a nessuno di dirti non ce la puoi fare. Che tu sia un giovane uomo o una giovane donna, che tu viva in città o in provincia, i computer avranno un ruolo molto importante nel tuo futuro. E se sei disposto a lavorare e studiare duramente, sarai tu a decidere il tuo futuro. Programmare non è difficile, parola di Barack Obama, che con questo discorso a fine 2013 promosse la campagna di Code.org, l'organizzazione no profit impegnata ad avvicinare al linguaggio del coding milioni di bambini nel mondo. Una campagna arrivata quest'anno anche in Italia con l'iniziativa Programma il futuro e il coinvolgimento di oltre 300.000 studenti in oltre 2.000 scuole. I numeri sono stati pubblicati proprio qualche giorno fa. Nei prossimi anni, ci dicono molti studi, le competenze digitali saranno molto richieste e anche nelle professioni apparentemente distanti da quel mondo, acquisirle darà una marcia in più. Ecco perché Talent Garden, la rete ormai internazionale di coworking creata da Davide Dattoli, ha deciso di puntare sulla formazione con la Tag Innovation School, che lancia il primo master italiano in coding. Un modello di formazione innovativo già sperimentato all'estero con una durata di sole 12 settimane. Ci facciamo raccontare tutto da Alessandro Rimassa, che è il direttore della scuola. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, in che cosa consiste il master? Che tipo di formazione dà e per quale professione? Iniziamo a raccontarlo. Il master è un percorso per chi vuole diventare web developer. Noi diciamo da principiante a junior in 12 settimane. È una tipologia di programma di formazione ampiamente sperimentato, come giustamente dicevi, negli Stati Uniti, che si sta diffondendo in tutto il mondo e che va a formare quei professionisti che poi lavorano appunto nel mondo dello sviluppo di siti web, professionisti di cui c'è una grandissima richiesta sul mercato, perché l'ultima ricerca fatta da Modis parla del 22% di posizioni scoperte, cioè le aziende cercano ma non ci sono le persone che fanno questo lavoro. Sarà un percorso, questo del Codemaster, non full time ma di vera e propria, noi diciamo full immersion, nel senso entrate da noi alla prima settimana e, lo dico in maniera simpatica, ma dimenticatevi di avere una vita, nel senso senso che se davvero si vuole imparare a sviluppare, se davvero si vuole sviluppare poi tutto quel mindset fondamentale per diventare web developer, bisogna fare veramente un percorso che è full immersion, un percorso che sarà incentrato, lo dico magari per le persone più tecniche, sulla tecnologia PHP, che è uno dei modi di fare web development oggi ed è quello più richiesto dal mercato, con l'88% delle posizioni richieste appunto per sviluppatori PHP. A chi è rivolto? C'è un profilo tipo dello studente? Ci sono limiti di età o ci sono competenze particolari richieste? Allora, l'altro giorno ci ha chiamato un ragazzo di 15 anni che ci ha chiesto se poteva farlo e ci siamo segnati la data del suo esame di maturità per andare a richiamarlo poi. È un percorso che è aperto sia a laureati che a non laureati, naturalmente dopo il diploma quantomeno, ed è un percorso che va a portarti direttamente nel mondo del lavoro e che lo fa in particolare per chi ha una passione per lo sviluppo, per l'utilizzo del computer in questo senso, ma appunto non ha ancora particolare esperienza. È aperto naturalmente anche ai laureati in informatica, che hanno una ottima base per poi fare una grande carriera ovviamente in questo mondo, che però spesso non hanno quelle competenze che il mercato del lavoro chiede immediatamente. Voi siete attenti anche al cosiddetto digital gender divide. Quanto può essere femminile questo mondo? Bisogna abbattere gli stereotipi che vogliono le ragazze lontane da questo mondo. Purtroppo dobbiamo abbattere gli stereotipi, ma anche la realtà, nel senso che le ragazze oggi sono lontane da questo mondo. Noi abbiamo lanciato una operazione che abbiamo chiamato Pink Brain, cervelli femminili, per portare appunto le ragazze e le donne nel mondo del coding, e abbiamo riservato a tutte le donne uno sconto sulla tassa di iscrizione di 1000 euro per ogni donna. Sul coding in questo momento c'è molta comunicazione, molto attivismo, ricordiamo le campagne che abbiamo citato più volte in Essere Avere, di code.org, l'attivismo di Coder Dojo, certo, e le iniziative che anche nelle scuole italiane sono arrivate. Ecco, quanto è importante coinvolgere i giovani in questa sensibilità, fare capire che sono queste le professioni del futuro, che c'è bisogno di queste competenze? È fondamentale, perché non è solo il coding, ma sono tutte le professioni legate al digitale e legate all'innovazione che hanno bisogno di persone. Io credo che oggi ci sia un grande problema di occupazione, specialmente in Italia, ma non solo, perché la domanda e l'offerta non si incontrano. Ci sono troppe persone che hanno studiato per fare alcuni mestieri che stanno scomparendo, e non ci sono abbastanza persone che hanno studiato invece per quelle professioni che stanno nascendo. È proprio su questo pensiero che abbiamo fondato la Tag Innovation School, ed è su questo pensiero che come primo percorso abbiamo lanciato il Codemaster, perché crediamo che si debba dare un segnale di forte discontinuità nella formazione. Tutti i report del World Economic Forum parlano di una formazione diversa, di una formazione che non deve essere più per forza lunga, ma deve essere connessa alle esigenze del momento. Diamo allora tutti i riferimenti, c'è anche la possibilità di alcune borse di studio, è così? Sì, abbiamo 20 posti a disposizione per la prima edizione di Codemaster e abbiamo 5 borse di studio totali. Ci si può candidare entro il 30 giugno, quindi abbiamo ancora un po' di tempo davanti, e lo si fa dal sito code-master.it. Stiamo cercando i migliori. Grazie ad Alessandro Rimassa per essere stato con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Continuiamo a parlare di innovazione e occupazione con un libro che analizza da una prospettiva molto particolare, con un linguaggio molto trasversale, denso di citazioni, esempi e aneddoti, molti dei fenomeni che raccontiamo spesso in Essere Avere. Il mondo startup, la cosiddetta crowd economy, dal crowdfunding alla sharing economy, l'universo dei big data e le frontiere del loro utilizzo, e poi fenomeni come la gamification, le dinamiche dinamiche di gioco applicate, cioè ad ambiti diversi come l'economia e il marketing. Insomma, molte delle tendenze che stanno rivoluzionando il modo di fare impresa, la comunicazione, ma anche il nostro modo di educare, di formare, di relazionarci con gli altri. Il libro si intitola Pop Economy, l'autore è Luciano Canova, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Maria Luisa, buongiorno a tutti e grazie appunto per questa occasione di parlare di Pop Economy. Luciano Canova insegna alla scuola Enrico Mattei, iniziamo col dire, Luciano, a chi è rivolto questo libro, che cosa si propone di raccontare, perché? Spero e credo che questo libro sia rivolto a una platea il più vasta possibile, con tanti livelli, perché chi vuole approfondire avrà e ha la possibilità di prendere le suggestioni che sono per tutti e cercare qualche peculiarità in più, però appunto l'idea è quella di arrivare al massimo numero di persone per cercare di descrivere in modo pop le tendenze che stanno davvero modificando radicalmente la nostra vita quotidiana, quindi deve essere un libro per tutti. Uno degli assunti iniziali del libro è disoccupazione tecnologica, si parte da una ricerca molto importante e così aleggia insomma nelle premesse lo spettro della disoccupazione, perché tante delle innovazioni che abbiamo già citato prevedono comunque un cambiamento nell'organizzazione del lavoro. Assolutamente, il primo capitolo parte con questa citazione di uno studio dell'Università di Oxford che ha fatto molto parlare di sé un paio d'anni fa e che presenta uno scenario che possiamo definire apocalittico. Poi il libro è positivo, ma partiamo dall'apocalisse e poi andiamo e solo poi migliorando. Ce la leviamo subito. Poi andiamo subito migliorando. In realtà questo studio mostra che da qua a circa 20 anni un lavoro su due di quelli che oggi conosciamo, per effetto dell'automazione, della meccanizzazione della produzione, dei processi produttivi, potrebbe andare a sparire. Questa è la definizione di fatto di disoccupazione tecnologica, cioè la possibilità che con l'automazione il ritmo dell'innovazione possa essere più veloce della capacità dell'economia di rigenerare posti di lavoro. È da un lato uno spauracchio, dall'altro una sfida, e infatti questo libro vuole comunque trasmettere un messaggio positivo, in parte proprio guardando il passato, perché la disoccupazione tecnologica, concetto caro già a Keynes, e anzi praticamente il primo che ne ha parlato, nella storia non si è mai materializzata. In altri momenti della storia c'è stato questo spauracchio, ma l'economia e il sistema, i rapporti tra economia e società sono sempre stati capaci di rigenerarsi. Quindi è una sfida che in realtà penso possa essere raccolta con l'idea positiva di creare valore e di aggiungere valore e non di togliere. L'ho trovato un libro molto snacky, per così dire, si possono prendere qua e là i vari capitoli, pieno di dati ovviamente, tu sei un economista e sfata anche molti luoghi comuni. Uno di questi, l'Italia, leggevo sempre in fondo alle classifiche internazionali, in tema di crowdfunding invece vanta un'eccellenza. Sì, l'Italia innanzitutto è uno dei pochi paesi che si è dotata di una normativa, di una regolamentazione che riguarda il crowdfunding, questa possibilità di accedere a fondi, a risorse di denaro attraverso proprio il meccanismo della folla, possiamo tradurlo così, e della comunità e della condivisione. Per cui da questo punto di vista, a parte il fatto che ci sono moltissime realtà italiane che stanno prepotentemente scalando, diciamo così, la classifica delle piattaforme di crowdfunding e imponendosi anche a livello europeo, possiamo dire, è una cosa che mi preme subito dire è che questa forma di accesso al credito e deve essere complementare a quelle tradizionali, perché poi il rischio è anche quello di pensare che il crowdfunding risolva per miracolo il credit crunch o possa risolvere i problemi del credito delle banche. No, è uno strumento che insieme agli altri facilita in qualche modo, soprattutto per i progetti più creativi, il ricorso e l'accesso al credito e aumenta l'efficienza del sistema. Tra le varie cose che scopriamo leggendo Pop Economy, l'esistenza di vari tipi di economie. Io ho scoperto ad esempio che c'è un'economia del comportamento disonesto e non e la ignoravo assolutamente. Però veniamo invece al capitolo Big Data. Noi ci dedichiamo così alle riflessioni di contorno, una di queste è anche quella sulla tecnologia e i nuovi indicatori del benessere che vadano sì. oltre il PIL. Ecco, tra l'altro questo è uno dei tuoi campi di studio specifici. Sì, io nasco lì, diciamo così, mi occupo di economia della felicità e a proposito appunto di proliferare di dati, ormai è possibile attraverso questa mole di informazioni avere anche delle statistiche di misurazione della qualità della vita basate per esempio su tecniche di sentiment analysis che siano veramente capillari. Nel libro faccio una breve panoramica di alcuni esempi, uno molto famoso che riguarda l'America si chiama Edonimeter, l'edonometro, che prende il nome in realtà da un vecchio sogno di un economista del XIX secolo, Edgeworth, che immaginava, e nemmeno lui sapeva quanto fosse veritiero nella sua visione, uno strumento che potesse profilare istante per istante nella, la felicità delle persone. L'edonometro, utilizzando Twitter e tecniche molto elaborate di sentiment analysis, costruisce e mappa, come dire, il sentiment, il mood e la felicità istantanea dei cittadini americani giorno per giorno, e adesso si sta estendendo ad altri paesi. E anche qui eccellenza italiana, Voices from the Blogs in Italia fanno la stessa cosa con iHappy, e con Wired lavorano sul Wired Next Index, che è un bellissimo esempio di integrazione tra big data, e quindi dati caldi, istantanei, e dati freddi, che sono quelli dell'Istat, magari le trimestrali sulla disoccupazione, perché questi dati possono parlare insieme. Io uso sempre l'immagine del meteo e del clima. I dati freddi sono un po' il clima, quindi hanno qualcosa di strutturale. I dati caldi sono un po' il meteo, possono essere anche diversi da come uno ce lo si aspetta. Però mettere insieme queste due cose è fondamentale per capire quali sono le tendenze e le dinamiche. Grazie a Luciano Canova per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi, buona giornata a tutti. Essere e avere. Felix, disconnect the oxygen hose. Start the cameras, and our guardian angel will take care of you. All your help gone, help now. Focus sui trend. Quello che abbiamo appena sentito era l'audio del momento clou del lancio in caduta libera di Felix Baumgartner, un'impresa da record documentata in ogni sua parte anche grazie alle riprese in soggettiva delle 7 telecamere GoPro che indossava il base jumper, riprese poi circolate sui social, diventate anche uno spot trasmesso durante il Super Bowl, insomma l'inizio di quella che abbiamo definito action mania, che dalle imprese, dagli sport estremi, si è spostata all'attività sportiva ordinaria, per così dire, quella che pratichiamo, che possiamo praticare un po' tutti. Non solo GoPro, ora ci sono sul mercato anche i droni che ci inseguono e ci riprendono dall'alto mentre facciamo sport. È un filone che i brand cavalcano anche per le proprie strategie di comunicazione. Parliamo insomma di tutti quei prodotti e servizi che rendono memorabile la nostra esperienza sportiva. Lo facciamo con Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo. Ciao a te e agli ascoltatori. Con cosa iniziamo? Io inizierei proprio a fare una rapida carrellata su quello che offre il mercato delle action cam, che ricordiamo che a differenza delle videocamere standard permettono di filmare e fotografare l'azione senza usare le mani, e questa è la loro peculiarità, oltre al fatto di non temere urti, sporco, scossoni e cadute. Accanto all'indiscussa capostipite del segmento GoPro, che è sul mercato da ormai più di 10 anni e che offre una quantità di supporti per agganciarlo ovunque, dagli strumenti musicali ai caschi e ai manubri delle biciclette, segnaliamo anche altri competitors sul mercato delle action cam. Della partita fa parte Polaroid, che prova a proporre una action cam dal design molto compatto e dal prezzo più abbordabile. I player giapponesi sono Sony e Panasonic, ai quali si affiancano alcuni competitors diciamo nuovi. Più recente il cinese Xiaomi, che ha presentato la iCamera compatta ed economica ed è da pochi giorni disponibile nella versione Night Vision Edition, che consente di riprendere in assenza di luce grazie al sensore integrato ad infrarosso. Ultimo ingresso nel settore è quello di TomTom. TomTom Bandit è stato presentato pochi giorni fa. Ciò che distingue TomTom Bandit dalle altre action cam è quello che rende la produzione e la condivisione del video action più facile ed intuitivo rispetto alla concorrenza. Infatti basta connettere il Bandit con Wi-Fi allo smartphone e in tempo reale si può pubblicare un video già editato in formato di mini clip, quindi si arriva sul web molto più rapidamente rispetto ai video degli altri competitor. Dalle action cam ai droni, lo abbiamo accennato prima, è un filone che sembra promettente la novità un po' di questi mesi, è così? Sì, sì, sì, la novità più attesa in questo campo è quella di Lily, il nome del drone inseparabile che ti seguirà come un'ombra. Questo drone è particolare perché basta lanciarlo in aria senza impostazioni particolari o registrazioni particolari, è privo di telecomando e segue con un dispositivo di posizionamento che sta in tasca al suo proprietario, lo segue nelle sue imprese sportive, volando a 15 metri d'altezza con una velocità fino a 40 km orari. Questo prodotto è già preordinabile online a un prezzo di $500 fino alla prossima settimana. Certo che rimangono dei dubbi sulla sicurezza e sull'affidabilità di un oggetto che sostanzialmente vola da solo e fa tutto da solo, ma poiché, come dire, siamo nella fase di prototipo, probabilmente questi problemi verranno superati. C'è già ovviamente un video di lancio che postiamo sulla nostra pagina Facebook, così che tutti si possano rendere conto, possano avere un'idea insomma di quale tipo di prodotto stiamo parlando. Anche le società sportive, Carlo, si sono accorte delle potenzialità anche comunicative o tecniche comunque per il controllo degli allenamenti di questi strumenti? Sì, se ne sono accorti i primi negli Stati Uniti, Dallas Cowboys, che hanno utilizzato e utilizzano il drone per riprendere gli allenamenti, e l'allenatore dei Dallas Cowboys, Jason Garrett, sostiene che la visuale fornita dalle riprese del drone è l'unica che ti permette di ottenere con un solo colpo d'occhio la posizione di tutti e 22 giocatori. In Italia il drone viene utilizzato dall'allenatore dell'Empoli, Maurizio Sarri, che anche qui si avvantaggia delle riprese grazie al grandangolo della telecamera di bordo. Ma la tecnologia non viene usata solo per migliorarsi nello sport, a volte si impiega anche per spiare gli avversari. È quello che succede in Giappone, dove molte squadre usano i droni per la ripresa degli allenamenti. Per rispondere, come dire, a questi tentativi di spionaggio, la squadra del Sanfrecce Hiroshima si è dotata di un sistema di protezione antidrone. Sostanzialmente i tecnici hanno installato una rete di raggi infrarossi e ultrasuoni che crea interferenze al sistema di controllo del drone. Proprio qualche settimana fa questo sistema ha abbattuto il primo nemico. Il presidente della squadra del Sanfrecce ha reso noto l'accaduto, ma nessuno si è presentato a reclamare il drone abbattuto. Questo forse è dovuto al fatto che lo spionaggio sportivo in Giappone è perseguibile per legge e la squadra ritenuta colpevole potrebbe essere retrocessa. Beh, una spy story a tutti gli effetti, molto gustosa ovviamente applicata al mondo del calcio. Passiamo a chi tra i brand inizia a cavalcare, ecco, questa tendenza, perché ci sono già delle segnalazioni anche lì, è così? Sì, esatto, e anche qui non è la prima applicazione di drone in pubblicità, ma sicuramente una delle prime in campo sportivo. Per il lancio di Pepsi Max è stato girato uno spot che si chiama Drone Football, si trova su YouTube senza problemi, ed è stato praticamente ricostruito una normale partita di calcetto arricchita con luci a LED disegnate per illuminare il campo, ma la particolarità è che al posto dell'arbitro c'è un drone che dirige la partita, e la cosa carina è che ad un certo punto il drone mostra addirittura il cartellino giallo al giocatore falloso. Abbiamo ancora solo un minuto, poco meno. Carlo, so che hai delle segnalazioni anche in tema di app, perché anche lì c'è la corsa per documentare un po' le imprese sportive.